Tua di giornalista, al quale chiediamo di darci un quadro, secondo lui e secondo la sua esperienza, di quella che è la multicultura nei media oggi in Italia. Direi che la multicultura, se vogliamo approfondire, non c'è proprio, ossia c'è nei temi, nel senso che i temi che toccano le altre culture che vivono in Italia stanno diventando sempre di più temi all'ordine del giorno, però la mia impressione è che sono trattati in assenza degli interlocutori, ossia gli immigrati, le altre culture sono coloro di cui si parla senza che partecipino pienamente al dibattito. Sembra che su di loro si può dire tutto senza che loro stessi possano dire in prima persona ciò che sono, ciò che vogliono e ciò che vivono. Tu hai avuto un'esperienza, quella della RAI, con un mondo a colori che è stata comunque importante nel panorama radio-televisivo sotto questo aspetto. Ci sono delle lezioni che hai tratto dal fare questo programma? Ma una lezione amara sicuramente, nel senso che sono ormai tantissimi anni sia a livello di radio che di televisione. La mia impressione è che sia stato io ad adeguarmi al mondo italiano, ma che poco del mio mondo, del mio universo culturale, delle mie origini, della mia lingua, delle mie culture, della mia musica, poco sia passato invece nell'esperienza professionale. Mi sono adeguato io, però a me non è stato chiesto niente di particolare, ecco, niente di ciò che sono le mie radici, niente di ciò che è l'altra mia appartenenza. E sotto questo punto di vista si vive una certa frustrazione costante. Ci sono spesso convegni, conferenze, si fa un gran parlare, però spesso il rischio, l'abbiamo visto nel passato, è che rimangano buone parole senza nulla di più. Secondo te c'è una strategia, c'è un qualche modo per uscire da questa impasse e provare a migliorare questo panorama comunque? Ma la strategia secondo me la inventeranno, ce la detteranno i fatti. Quando le comunità di stranieri che vivono in Italia riusciranno ad auto-organizzarsi, a produrre loro stessi informazioni su se stessi, e già in parte sta avvenendo, però sta avvenendo in modo molto marginale, quando questa marginalità finirà e questi mezzi diventeranno concorrenziali rispetto ai mezzi cosiddetti normali, saranno proprio loro stessi a proporsi come interlocutori obbligati, che chiameranno tutti finalmente a fare un'informazione non a senso unico, ma che contempli un messaggio a più voce. C'è un pericolo, secondo te? C'è un pericolo che l'immigrato venga sempre più ghettizzato anche proprio nei confronti dell'informazione, un rischio di standardizzazione delle immagini? Ma secondo me questi ultimi avvenimenti rischiano ancora di più di accrescere quel senso di accerchiamento che parecchi immigrati sentono, no? C'è come una specie di costruzione del nemico portato avanti dalla stampa a reti unificate, che tendono un po' a fare un'amalgama, che tendono un po' a identificare gli immigrati in generale, gli immigrati in questo caso di radice islamica, come dei potenziali criminali, dei potenziali terroristi. Ancora una volta occorre che l'informazione giochi il suo ruolo in modo molto responsabile, nella capacità di discernimento, nella capacità di distinguere e in una certa ecologia del linguaggio, direi, no? Che non usi alcune parole alla leggera, ma che rimetta ad ogni posto la densità della storia personale, della storia comunitaria.